Qual è stata la reazione non soltanto dei ragazzi, ma anche degli adulti, quindi delle famiglie, degli educatori? Trovo che un progetto abbia una necessità se anche rileva che c'è e tocca un punto sensibile nel dibattito sociale e culturale. In questo caso lo è. Mettiamo subito in chiaro che chi viene a teatro, in questo caso bambini e ragazzi, arriva con la scuola. E con la scuola significa che gli insegnanti portano i bambini e gli adolescenti a teatro e questo avviene dietro una precisa presentazione dello spettacolo ai genitori. Questo significa che chi arriva a teatro è pienamente consapevole, se non direttamente, indirettamente da parte delle persone che sono i genitori o gli insegnanti, rispetto a quello che andranno a vedere. Quindi su questo vorrei che fosse chiaro che c'è una piena consapevolezza. Quindi arriva già un pubblico che è in qualche maniera, che aderisce al progetto. Ovviamente questo crea un ambiente anche molto ben accogliente e quello che registriamo di solito è una grande disponibilità da parte dei bambini a lasciarsi meravigliare e anche a partecipare nei momenti di incontro con la compagnia anche nei termini sorprendenti con cui lo fanno i bambini, ossia domande inaspettate, punti di vista originali. L'atteggiamento è sempre molto positivo, molto entusiasta e molto giocoso, come è giusto che sia in quella fase dell'età. Dopodiché è ovvio che è un progetto che potrebbe dar fastidio a qualcun altro, ma su questo, come dire, invitiamo sempre, e credo che sia la risposta migliore da dare a qualsiasi ipotesi di polemica, è quella di venire a vedersi gli spettacoli, partecipare insieme ai bambini e le bambine o ai ragazzi e le ragazze alla visione di quegli spettacoli per capirne il portato e come questi in realtà dialoghino con le coscienze del domani. Ringraziamo Daniele Del Pozzo e ricordiamo che Teatro Arcobaleno sarà inaugurato il 26 ottobre.